quando gli uccelli porteranno i zoccoli e su per l'aria volerà gli puffoli, le rose cigne broderanno broccoli e le ranocchie suoneranno i zoccoli. Il dì dei morti sarà senza moccoli, mirano neve bianche le tartuffoli, i ricchi zapperanno la cicoria, prima, prima che voi, voi, voi, conosciatevi memoria. Quando gli muti canteranno fa, e gli tedeschi non sapranno più credere, gli sorgi piglieranno le gatte miaule e fuggiranno i cani dalle pietre. Cos'era coperti cieli nuvole, amaro sarà il zucchero e tu ci impedire il mar di piante, i monti leggeranno fisica e dopo pranzo si darà la